America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. In the meantime, we've got NATO, as we speak, consulting in Brussels. Avete sentito il presidente Obama ieri, di nuovo ha dichiarato che l'opzione militare resta aperta. Ci sono degli incontri della NATO a Bruxelles, c'è la consultazione diplomatica, naturalmente c'è un percorso graduale di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, il fattore umanitario resta centrale. Una situazione di fondo che per ora non ha avuto degli sviluppi decisivi. Gli insorti continuano a resistere, premono da alcune parti, Gheddafi avanza e preme da altre parti. In questo contesto di stallo, la preoccupazione maggiore in questo momento riguarda tuttavia l'andamento del prezzo del petrolio. Price of oil is very much involved as the longer these battles go on. In America ormai non si parla d'altro. Quello che vi ho fatto ascoltare è un piccolo estratto della National Public Radio in cui si affronta la questione del petrolio. Perché? Beh, perché il prezzo del carburante al distributore di benzina è salito a $3.50 e dunque ai massimi ormai da qualche tempo. Sentiamo cosa da dire Bill Daley, il capo di gabinetto di Barack Obama, proprio sulla questione petrolifera e sull'utilizzo delle riserve nazionali. There's no question that the increase in oil and the uncertainty in the Middle East has caused great uncertainty in the markets and affecting the price of energy. Gli Stati Uniti si stanno preparando all'ipotesi di mobilitare le riserve nazionali. Ci sono dei politici americani, il senatore Jeff Bingham, per esempio, il presidente della Commissione Risorse Energetiche Naturali al Senato, che ha proposto di considerare la vendita di parte di queste riserve. Stiamo parlando di 727 milioni di barili di petrolio. Queste sono riserve strategiche nazionali americane che sono al massimo della loro capacità. E dunque Bingham dice, beh, vendiamone un po', intanto per stabilizzare i prezzi e limitare qualunque pericolo di interruzione nell'approvvigionamento, ma soprattutto dice perché una vendita oggi a questi prezzi elevati, ricordiamolo, il Texas Intermediate è arrivato a 106-105, ma il Brent addirittura è arrivato anche a $120 al barile, dice perché a questi prezzi possiamo portare capitali freschi nelle povere casse dello Stato e dunque avremmo il vantaggio di attenuare la pressione sul disavanzo. L'aumento del prezzo del greggio, soprattutto se continuerà, avrà ripercussioni soprattutto sui paesi più poveri. Il costo naturalmente si trasmette, si traduce su altri prodotti, si traduce su altre materie prime. Abbiamo già registrato un aumento, per esempio, del costo del grano e del gran turco. Però, mentre in un paese industrializzato prendiamo il pane, la componente farina, dunque un aumento del prezzo della farina è soltanto di circa il 3% in quello che è il costo di un filoncino al mercato, perché il resto è produzione, marketing, gestione, eccetera. In un paese in via di sviluppo, in un paese emergente, l'impatto della farina sul costo è di circa il 55%, e dunque per questo ci sono pericoli di ulteriori instabilità se le cose non si fermeranno. Abbiamo con noi i microfoni di America 24 Alberto Clò, professore di economia industriale a Bologna, ex ministro dell'industria, consigliere all'amministrazione dell'ENI e direttore della rivista Energetica. Buongiorno professor Clò, una domanda innanzitutto: siamo davanti a una crisi di breve e medio termine o rischiamo di avere una crisi strutturale? La riduzione libica, valutiamo intorno a 1 milione di barili al giorno, è abbastanza limitata e soprattutto interviene questa riduzione d'offerta a fronte di scorte molto ampie. I paesi dell'Agenzia di Parigi sono in grado di disporre di 4 milioni di barili al giorno per 12 mesi. Il rischio che io ravviso, diciamo, per il domani è che si reintroduce nell'equazione petrolifera la variabile geopolitica, il rischio geopolitico, e che questo rischio possa indurre una riduzione degli investimenti che erano necessarie per adeguare e ampliare la capacità produttiva. Mentre la tensione dello scorso anno è stata generata da un rischio domanda e che quindi era necessario, diciamo, accrescere la capacità produttiva per fronteggiare un'aspettativa di crescita della domanda. In prospettiva rischia, diciamo, di aggiungere al rischio domanda al rischio offerta, che gli investimenti che erano necessari fare per ampliare la capacità produttiva non si realizzino nella misura necessaria e che quindi il combinato disposto tra l'una e l'altra possa portare ha una dinamica, non dico esplosiva, ma robusta dei prezzi, così come il prezzo dell'energia è stato una delle determinanti della grande crisi economica di questi anni, che non era solo finanziaria, il prezzo del petrolio rischia di strozzare l'uscita dalla recessione. Ecco, come possiamo reagire in Italia? Ci sono riserve strategiche? No, l'Italia, facendo parte dell'Agenzia di Parigi, come gli altri paesi, ha obblighi di riserve strategiche che sono per un numero molto consistente di giorni, sono 50-60 giorni. L'ENI, di cui lei è membro del Consiglio di Amministrazione, secondo lei sta reagendo bene a questa crisi? Ci sono dei problemi potenziali di approvvigionamento, visto che c'erano forti interessi in Libia e comunque nella gestione del business dell'ENI legato alla produzione libica? No, nel caso del gas, l'ENI è la compagnia europea che dispone di maggior numero di contratti. E qui questo insegna il fatto che la diversificazione degli approvvigionamenti anche di una stessa fonte premia. E anche sul fronte del petrolio, certo, avrà una riduzione della produzione libica, però non c'è nessun problema di approvvigionamento. Come dicevo, l'offerta è molto ampia. Non solo, diciamo, interessante il fatto che prontamente i paesi OPEC, segnatamente l'Arabia Saudita, abbiano manifestato la piena disponibilità, già concretizzatesi, di fronteggiare qualsiasi riduzione della produzione libica o da altri paesi, aumentando la produzione. Nei giorni scorsi l'Arabia Saudita, da notizie della Reuters e altre agenzie, ha già aumentato la produzione oltre i 9 milioni di barili al giorno. Ecco, il Presidente degli Stati Uniti è stato inequivocabile, ha detto che Gheddafi se ne deve andare e che secondo lui se ne andrà, è solo questione di tempo. Qual è la sua posizione da docente universitario, direi? Vista, diciamo, dal punto di vista della situazione energetica internazionale, bisogna, diciamo, reagire con grande razionalità, io penso, no? Diciamo, soprattutto, diciamo, evitando che ci sia un fenomeno di contagio, e questo è il rischio maggiore. Il problema è che più si prolunga, al di là del fatto che il suo prolungarsi possa determinare situazioni interne in questi paesi, diciamo, socialmente molto difficile, più si prolunga, più si ha una situazione, come dicevo, di quasi di congelamento delle attività, dei progetti che erano in corso nel petrolio come nel gas, e una volta che questa si risolve e più si prolunga, più sarà lungo il tempo del ritorno a una situazione di normalità. Vediamo il caso dell'Iraq. L'Iraq dal 2003 ci si immaginava, nel periodo, diciamo, dell'intervento militare, che nell'arco di pochi mesi o un anno o due si tornasse alla normalità. Non si è ancora tornati alla normalità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo appena un anno dall'uscita del suo ultimo successo Melted, il garage rocker di San Francisco Ty Segall ha già pronto un nuovo album dal titolo Goodbye Bread. Ascoltiamo di Ty Segall, Lovely One. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.